Fratello resiste anche d'estate, appunto dopo il 25 aprile, che non è stato completamente in presenza neanche quest'anno. Ci sono però tre appuntamenti che riguardano quest'estate. Ne parliamo con Francesco, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, ciao Alessandro. Fratello resiste on a solitary beach. Vi preparate a un'estate rovente in città? Sì, è stata veramente arrivata. Noi ovviamente, vabbè, insomma, il titolo è un po' un tributo a Battiato, che ci ha lasciato da poco. Diciamo che noi siamo felici di riuscire a tornare in strada dopo 2 anni in cui abbiamo fatto cose più o meno virtuali, abbiamo maltrattato dei direttori di radio costringendoli a dirette di 6.000 ore, eccetera, eccetera. Però insomma la nostra dimensione, la dimensione del fratello, della comunità del fratello, è quella di fare le cose in strada. Quindi ci tenevamo a tornare a fare cose in presenza e anche a far vedere che stare in strada può essere qualcosa di diverso a fare un evento a scopo di lucro o a fare un evento per magari spostare la gente che sta seduta a bere le birre, insomma. Avete appunto 3 giorni, il 26 giugno, il 4 luglio e il 10 luglio, con dibattiti, musica e teatro. Cosa dobbiamo aspettarci? Il programma è, diciamo, molto ricco e noi l'abbiamo costruito, diciamo, richiamando tante realtà e tanti amici che naturalmente hanno sempre contribuito alla festa del 25 aprile e alle iniziative che abbiamo fatto in strada. Diciamo che le 2 giornate del 26 giugno e del 10 luglio hanno una forma, che saranno 2 sabati, hanno una forma più di una sorta di assemblea pubblica fatta all'aperto. Il 26 giugno, in collaborazione, un'iniziativa pubblica in collaborazione con XM24, fondamentalmente il tema ruota intorno alle autogestioni, agli spazi occupati, e saranno presenti oltre XM altre realtà di quel tipo, anche extra bolognesi. Ovviamente tutto poi contornato anche da attività più live painting, piccole incursioni musicali e altre cose, diciamo, più ludiche. Per quanto riguarda invece il 10 luglio, è un'altra sorta di assemblea pubblica, con il titolo è Resistere al Cemento, è organizzata in collaborazione con i ragazzi di Barricata 71 e fondamentalmente chiama raccolta tutte le varie realtà che sono impegnate nelle istanze riguardanti il consumo di suolo sul territorio bolognese. Per quanto riguarda invece la giornata del 4 luglio, che è quella, diciamo, un pochettino più ampio respiro a livello, diciamo, anche di tempi, 4 luglio di domenica noi faremo una giornata in Piazza San Rocco. Tutti e 3 gli eventi sono in Piazza San Rocco, quindi alla fine di Via del Pratello. Questa è in collaborazione con il Centro di Documentazione dei Movimenti Lorusso Giuliani e VAX 61 e prevede praticamente una giornata con una serie di concerti. Verrà montato un palco, ci saranno una serie di concerti, quindi tornerà anche un po' di musica dal vivo durante il giorno, quindi a partire dalle 3, e alle 9:30 ci sarà uno spettacolo a cui noi teniamo particolarmente, che si intitola 20 anni, cronache d'inizio millennio dal G8 di Genova, e che quindi è incentrato, diciamo, sul ventennale del G8 di Genova e la morte di Carlo Giuliani. Questo progetto teatrale è uno spettacolo di Alessio Di Modica ed è portato in scena da Area Teatro. È un progetto che è nato come crowdfunding, che ha visto la partecipazione di tante realtà, e Fratello Resiste ha deciso, oltre che di chiamare la compagnia per fare lo spettacolo in piazza, e tra l'altro sarà la prima nazionale, ha deciso anche di partecipare al crowdfunding, insomma insieme a appunto tante altre realtà che lo supportano. Tu immagino tutto ingresso gratuito nello stile Pratello? Sì, tutto ingresso gratuito nello stile Pratello, ci sarà un po' di autofinanziamento per cercare di rientrare un po' dalle spese, insomma, quindi ci sarà un po' di birrette, anche perché insomma le giornate saranno calde, tutto quanto. Ci sarà anche, diciamo, un mercatino, diciamo, di materiale culturale resistente sempre a tema, riguardante appunto le tematiche delle varie giornate, e basta. Beh, insomma, è già abbastanza, insomma. È molto. Poi sul nostro gruppo Facebook ci sono tutti gli eventi. Probabilmente siamo stati un po' disordinati, però insomma, diciamo che eravamo un po' arrugginiti dopo questi 2 anni di letargo, ma stiamo cercando di recuperare lo smalto. Allora, io ricordo che il primo appuntamento è già questo sabato, 26 giugno, in Piazza San Rocco al Pratello. Grazie mille, Francesco. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo.